Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ritroviamo gli amici dell'Adico di Mestre nella persona del presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Di disoccupazione ci siamo occupati purtroppo spesso si parla, lo fanno anche i giornali, i quotidiani, le rassegne su internet, si parla di disoccupazione giovanile perché i dati, lo sappiamo, sono molto preoccupanti, ma spesso ci si dimentica dell'età di mezzo, quella tra i 40 e i 55 anni, e lì non è che le cose vadano meglio, giusto? Certo amico, non c'è solo la disoccupazione giovanile e purtroppo, come spesso abbiamo sempre trattato anche noi, dove ci si cerca sempre di focalizzare una maggiore attenzione tra quelli che sono sostanzialmente gli over 35, ma c'è un'altra emergenza sociale che certamente non è meno importante, ma anzi assume per certi aspetti anche somiglianze più drammatiche, ed è quella degli uomini e chiaramente delle donne che si trovano disoccupati tra i 30 e i 55 anni. Ed è una fascia purtroppo sempre in crescita, alcuni soprattutto verso la fascia più alta li hanno chiamati esodati perché sono dovuti andare via dal lavoro appunto per licenziamento, per esuberi, ma ancora non possono andare in pensione. Però chi di anni insomma ne ha una quarantina, la pensione la vede molto molto distante, e riuscire a rientrare nel mondo del lavoro a quest'età può essere complicato. Guarda, per dare un'esatta collocazione a queste fascia sociale, a queste persone, in quello che è un contesto, come hai detto te, di cui sono troppo giovani per essere collocati, ma troppo vecchi per andare in pensione, o meglio, scusami, sono troppo giovani per andare in pensione, ma troppo vecchi per essere collocati. Certamente Mirko, bisogna capire che ad oggi è un fenomeno veramente importante che secondo noi oggi con te abbiamo voluto affrontare, perché troppo poco veramente questa categoria di persone vengono tenute in considerazione, soprattutto perché facendo quello che è un focus un po' sugli incentivi che sostanzialmente esistono, le possibilità che hanno queste persone di trovare un'occupazione, sostanzialmente scopriamo che ad oggi sono quelli che teoricamente sono più svantaggiati rispetto a qualsiasi altra categoria, cioè rispetto ai giovani che oggi magari sappiamo ci sono degli incentivi per essere assunti, e anche se questi incentivi chiaramente si tratta di una cifra a fondo perduto che vanno a sgravare i datori di lavoro su quelli che sono degli oneri fiscali, e sono troppo sconvenienti, non sono diciamo così allettanti per quelle imprese che vogliono assumere queste persone tra i 40 e i 50 anni, 55, perché comunque non esistono sostanzialmente degli sgravi fiscali che in questo momento permettono veramente a queste persone di essere competitive rispetto ad altre. E questo anche a prescindere magari dalla competenza e dalle capacità che queste persone, insomma, dopo magari 15-20 anni di lavoro già alle spalle, possono avere. Certo, troviamo persone che in questa fascia d'età hanno veramente delle esperienze incredibili, addirittura dei laureati in un ambito rispetto che in un altro, che hanno trovato delle soluzioni per sopravvivere, come possono essere delle ripetizioni a ore, ma anche molte altre persone, dall'operaio ai direttori, che sostanzialmente rientrando in questa categoria veramente non riescono più a ricollocarsi. Ma c'è anche appunto il fenomeno di chi magari avevano delle posizioni di una certa rilevanza ed oggi, proprio anche per quello che percepivano, non sono appetibili perché nessuno è in grado di potergli offrire quello che magari potevano, quello che magari ricevevano prima, ma soprattutto ci sono anche delle esigenze che sostanzialmente vanno incontro anche a quelle che sono delle impossibilità di poter accettare certe proposte, perché magari certe persone a certa età hanno anche il problema del mutuo, della famiglia, e certamente non possono adattarsi a lavoretti a 300-400 euro al mese come magari un giovane potrebbe fare. Quindi sostanzialmente tu inizio hai parlato di esodati, che quindi sostanzialmente rientrano un po' su quelle persone che per colpa della riforma Fornero si sono trovati qualche anno prima ad andare in pensione e poi per effetto di un allungamento dell'età pensionistica determinata da una riforma vergognosa, si sono trovati disoccupati, ma queste invece sono persone che non hanno neanche la prospettiva della pensione, perché sostanzialmente si trovano a zero redditi e con un'età che sostanzialmente a nessuno conviene poter dare a loro una benché più piccola occupazione. E magari, visto che la carriera lavorativa alle spalle è relativamente corta, senza essere riusciti a metter via nemmeno molto per resistere, ragion per cui si torna anche in questi casi, anche a questa età, magari dai genitori anziani, laddove ci siano ancora. Questo amico, purtroppo, come hai detto tu, e come stiamo cercando anche, grazie al tuo contributo, a far comprendere a tutti, è un fenomeno che veramente merita a dover essere, a dover emergere, anche perché cioè, ad oggi non abbiamo un dato vero e proprio su quelli che sono i numeri di queste persone, ma sostanzialmente si parla di almeno 500.000 di disoccupati che rientrano in questa fascia d'età. Certo, però se anch'io sostengo che magari un giovane, nella disgrazia con cui oggi l'Italia sostanzialmente non offre più opportunità, ma può coltivare almeno la speranza di poter andare all'estero, e cerchiamo di capire che un uomo che ha 50 anni, che ormai era abituato ed era radicato su un certo contesto di appartenenza, pensare di mettersi in discussione, partire con una valigetta a 50 anni e suonare i campanelli in cerca di un'occupazione, bisogna veramente rendersi conto che le possibilità sono ben poche, e questo veramente è un dramma che negli anni potrà sicuramente assumere un aspetto e un connotato sempre più grave e peggiore. Sempre che poi l'economia non riparta, e probabilmente non ripartirà più come era prima del 2008. Ci sono iniziative che vanno a sostegno di queste persone? Credo che anche da voi, anche se voi come Associazione Difesa Consumatori magari potete fare poco, ma anche a voi si rivolgono queste persone? Certamente noi in situazioni così ne abbiamo tantissime, e certamente facciamo molta fatica a poter aiutare, se non cercando di indirizzarli su quelle che possono essere delle realtà più appropriate, come alcune associazioni, pensiamo alla Caritas, dove ci sono addirittura dei volontari che offrono la spesa gratuitamente o danno da mangiare a mezzogiorno, o i servizi sociali dei comuni, dove magari qualcuno può andare magari con quella che è una sua situazione e sperare su un aiuto delle istituzioni. Ma certamente comunque è ora che, al di là di quella che è la legge elettorale, quali sono i problemi che coinvolgono i grandi sistemi, si comincia veramente a pensare alle necessità che il popolo ha e che i cittadini hanno, perché veramente è una situazione che è sempre più drammatica. E di conseguenza, legato anche a questo tema, tra due giorni ne affrontiamo un altro, che è quello dei cibi scaduti e della dieta che gli italiani cominciano a fare anche un po' per forza di cose. Grazie a Carlo Garofolini, presidente dell'Adico, tra un paio di giorni. Grazie a te, amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.